sente, cioè si capiscono le parole più o meno, cioè si gracchia, no, non si sente, più o meno, non si sa. Come un bel trancio, ritorno al banco, finita.